Atrocità, con le sue grandi voci in coro, con le sue omertà. Scrivo una canzone dolce mentre il mondo va, con le sue ragazze belle e chissà dove va. Canto una canzone al mondo, una canzone a me. Canto una canzone al mondo, una canzone per te. Canzone per te.